bianco e dolce cigno cantando more, ed io piangendo giù al fin del viver mio, ed io piangendo giù al fin del viver mio. Strane ed diversa sorte che scorre sconsolato, ed io moro, ed io moro beato. Morte che nel morire men piedi gioia tutto e di desire, se nel morir altro dolor non sento, di mille morte, di mille